il grande reset. Un programma con l'occhi da matto. Di Simone Pizzi. Sì. Belli di casa, bentornati a questo nuovo appuntamento con il Grande Reset, l'appuntamento che come tutti i venerdì mattina alle ore 7 vi fa compagnia qui su runtimeradio.it. E dovevo dire una cosa figa, gagliarda, me l'ero preparato, ma ovviamente se n'è andata come lacrime nella pioggia, anche perché questa mattina sono un po' svegliato, diciamo, sì, no, mi sono svegliato giusto, però ci ho messo qualche minuto di più a uscire col piedino dal letto. Comunque, la cosa importante è che oggi è un grande venerdì per Runtime Radio. Perché? Perché praticamente succede che adesso stiamo facendo questa diretta, ma poi questa sera dalle 21 in poi fino a mezzanotte e mezza, l'una, insomma, sarà tutto un'enorme diretta dove ci saranno due programmi che si coincideranno, ossia alle 21:30 poi inizierà lo speciale di Sanremo con Carlo e Michela, e poi dopo ci sarà Runtime by night verso le ore 23. Ma insomma, devo dire che rispetto al grande reset, che mi sta facendo piacere il fatto che c'è anche qualcuno che lo ascolta, anche in podcast addirittura, chi l'avrebbe mai detto, ma soprattutto che sta continuando. Ci sono anche tante altre puntate programmate. Quest'oggi abbiamo con noi Francesco Di Muro. Ciao Francesco. Ciao Francesco. Con un bellissimo e meraviglioso collegamento telefonico che è meglio di come era prima, quindi insomma accontentatevi questa mattina. Sì, quello l'altra volta, che non è problema mio. No, che non è. Ma il problema dei poteri forti vuoi impedirci di farci ascoltare in modo decente questa puntata. Come colpa del 5G il fatto che non riuscivo ad alzarti, che ti sei dimenticato cosa volevi dire. Esatto. Già sono in atto per boicottarci, guarda. Vedi. Ma va bene, comunque ragazzi, tra l'altro poi per un po' Francesco non lo disturbiamo più, perché giustamente tirarlo giù dal letto. Sono quattro puntate consecutive in cui o in diretta o tramite contributi o ci sono in questo programma. Vabbè, è tuo e OPI e sto programma, fammi capire. Esatto, ma vabbè, i contributi va bene, perché mi piace fare il fatto che questo programma sia un po' distribuito, un po' ci sono i contributi di tutti, un po' di qua, un po' di là, perché secondo me poi alla fine comunque è un po' la particolarità, no? Invece di fare il classico rant mattutino, ecco, siamo qui, cerco di sentire un po' i pareri di tutti su tante cose, ma questa volta ti volevo coinvolgere perché il tema è pregno, come dicevano quelli saggi. E per farvi capire insomma di che cosa parleremo, metto l'unico brano di oggi, poi dopo andremo proprio lisci fino alla fine, anche perché di cose da dire ci sono e forse non riusciremo neanche a dirle tutte, e soprattutto non riusciremo a dirle bene, che questa è la cosa più importante, insomma. Svegliatevi italiani, brava gente, qua la truffa è grossa e congeniata, questo paese si è indebitato. E questo è Mannarino con Svegliatevi italiani, perché giustamente questo episodio, come lo chiamiamo? Lo chiamiamo Sveglia, con i punti esclamativi, gli uno, volevo scrivere anche uno, ma poi graficamente è diventato brutto, insomma, quindi... parliamo di complottismo, ma d'altronde un episodio, cioè una trasmissione che si chiama Il Grande Reset avrebbe potuto ignorare questo tipo di tema? No, e probabilmente ci ritorneremo anche sopra, perché il complottismo è un qualcosa di insito proprio antropologicamente nel genere umano. Sembra una cosa che noi vediamo come un fenomeno moderno, ma in realtà è un qualcosa che parte proprio a ritroso nel tempo, proprio quando l'uomo ha iniziato ad organizzarsi in strutture, in forme di potere. Chiaramente da chi subiva il potere c'è sempre stata un po' questa visione del fatto, ah, non ce lo tiche, no? Giusto Francesco? No, non è giusto, certo. Infatti è importante che dire cose che non sono giuste, però tra l'altro, cioè, questa cosa è anche interessante, perché se si va a fare un po' di ricerca, così come magari mi sono messo a fare io, anche se poi insomma in maniera estremamente relativa, non è che ovviamente, cioè, mi sono fatto più un'idea, diciamo, che mettermi proprio a fare una vera e propria ricerca, vai a, se vai a vedere poi alla fine teorie del complotto, che poi oggi noi le chiamiamo un po' così, cioè nel senso, però nella storia si perdono un po' tra miti, falsi miti, fra leggende metropolitane, che anche quelli sono tutti termini moderni, però insomma diciamo che questa mistificazione a volte della realtà c'è sempre stata, appunto abbiamo detto da quando poi l'uomo ha strutturato una certa forma di potere, ma non solo, secondo me poi in qualche maniera nascevano anche da un da dei presupposti che potevano essere anche diciamo verosimili quantomeno, no? Poi chiaramente col passare del tempo le cose hanno assunto tutta una serie di dimensioni, prendendo varie derivazioni, no? Cioè quelle sempre più o meno verosimili, quelle che poi alla fine magari andando a indagare tanto false non erano, e quelle che erano assolutamente campate in aria. Intanto salutiamo in chat Walter, Michela e Samuel di Radio Anziano, che per ora ci stanno facendo compagnia, aspettando che arrivino, insomma, arrivino qualcuno. Arrivi qualcun altro, scusate, ma la mattina per tutti. E se andiamo a vedere, ovviamente molte di queste storie nascono, ma veramente, insomma, a partire diciamo da quelle che è la storia più cronicizzata, cioè nel senso quella più raccontata, quella che a un certo punto poi viene trascritta nelle cronache, e quindi c'è tutta una serie di situazioni che sono quelle ufficiali e tutta una serie di situazioni che sono quelle meno ufficiali, dove si racconta insomma o si tramandavano insomma il fatto che alcune realtà, quindi sociali e politiche, come poteva essere per esempio i cristiani, no? Che dicevano vabbè, ma i cristiani erano una religione, sì, però poi voglio in un contesto storico hanno ovviamente una, diciamo, fanno parte di un contesto anche politico, no? E sociale, quindi insomma diciamo questi cristiani alla fine, partendo un po' da loro, costruivano anche loro questa idea del fatto che l'impero romano li vedeva come una minaccia, quindi non ci lo dicono, non ci permettono, non ci fanno fare, non, perché insomma ed era anche vero poi ovviamente, cioè questa è la cosa importante, anche se molto probabilmente diciamo la persecuzione dei romani nei confronti dei cristiani era più strettamente legata alla al fatto strettamente religioso oltre che politico, e perché comunque ogni volta che all'interno di una monarchia o di una come la possiamo chiamare, una dittatura, vabbè, per usare un termine che magari è un po' improprio, comunque autocrazia, tutte quelle forme che comunque in qualche maniera rappresentano un contrasto, una contrapposizione, anche una visione diversa da quelli che sono i diktat ovviamente del potere, è chiaro che poi c'è sempre una reazione, no? Quindi poi alla fine questa è una costante, è un po' una costante anche per a volte per alcune cospirazioni che partono dal basso tra virgolette, in realtà dietro un pochino c'è un'agenda che favorisce davvero i poteri forti tra virgolette. Sì, assolutamente, infatti poi alla fine cioè molte di queste cose, andandomele un po' a rileggere, ho visto che in realtà poi nascono come derivazioni di eventi che magari sono realmente successi, cioè se noi pensiamo al fatto di Giulio Cesare, poi dopo la storia in qualche maniera oppure gli storici cercano di dare, tramite ovviamente le ricerche che hanno fatto, poi di dare determinate interpretazioni, ma c'è sempre qualcuno che poi controinterpreta diciamo alcune situazioni e cerca un po' di trasformarle, insomma, non so, mo e fatti particolarmente eclatanti ce ne sono tanti, alcuni di questi poi io mi sono fatto un elenco, cioè nel senso, devo dire la verità, alcuni manco li conosco, perché io penso che l'avresti fatto per prendermi in giro quando ti ho detto guarda che è troppa roba e tu ci hai aggiunto altra roba, invece veramente ne vuoi parlare. No, in realtà io mi sono fatto un elenco mio, e poi ovviamente come ti ho detto, secondo me non è che ci mettiamo qua a fare tutto quanto l'elenco. L'unica cosa è che quello volevo dire che alla fine questa è una cosa che, come abbiamo detto prima, c'ha proprio una radice importante su quella che è proprio la storia, proprio la struttura della storia dell'umanità. Ma tra l'altro la cosa ancora più interessante è quanto poi alla fine tutto questo ha influenzato la cultura nei secoli, quindi secolarizzandosi, no? In qualche maniera mischiandosi anche a quelli che poi sono dei miti, mo al di là delle leggende più strettamente fantastiche, tra virgolette, c'è tutta una parte di leggende e miti che sono, sì, tra virgolette, pseudo fantastiche, ma che comunque poi partono anche da una radice strettamente potenzialmente reale, no? Tipo io penso a, cioè, Re Artù, no? Cioè su Re Artù, alla fine, se tu vai a leggere, no? Ci sono mille e mille interpretazioni, mille storie o roba del genere. Poi dopo, alla fine, c'è qualcuno che diceva che era un personaggio educato dai romani, perché quello in quel periodo dell'invasione, altri dicono a spada nella roccia, tutto. Alla fine, no? Cioè, nel senso, di tutte queste storie che noi abbiamo sentito parlare durante il corso del tempo, l'unica cosa che sappiamo è che a distanza di secoli, se non dei millenni, ancora magari ce le portiamo dietro e ancora un po' ci influenzano in qualche maniera, non solo nella narrativa, ma perché comunque nel mondo ipercomplottista certe cose ritornano sempre, no? Cioè, in questo senso, no, perché ti stavo dicendo, io sto parlando di leggende in generale, ma ritorno in complottista, sì, perché tu dici che a volte queste figure, queste cose leggendarie riemergono nel complottismo. Ok, ho capito il parallelo, scusa. Sì, sì, è questo il senso, cioè nel senso, noi dal sangue di Cristo al Graal, alla spada di Excalibur, a cose del genere, tutte queste cose comunque alla fine in qualche maniera ritornano in un contesto dove il complottismo ha appunto diverse sfaccettature, cioè da quella più verosimile da un certo punto di vista a quella ovviamente più assurda, di cui poi dopo parleremo, perché poi cercheremo anche un attimo di capire perché poi dopo ci sono determinate derive, perché come ho detto, magari la teoria che può sembrare assurda, una moderna che ci avevamo noi ai tempi quando ero ragazzino io, era la storia del Enrico Berlinguer, no? Noi tanto ne parliamo di questa cosa, no? Cioè nel senso di Enrico Berlinguer ucciso dagli americani con un laser invisibile, no? Cioè è dallo spazio, da un satellite dello spazio. Ma io da questa cosa dello spazio non la sapevo, devo dire la verità, cioè sapevo più, nel senso, per me finiva lì. Ci non fare versione, perché già era questione di telefono senza file, era partita da questa qua, era cosa più, diciamo, diffusa, e poi si è tradotto nel laser nel pubblico, queste cose qua. Sì, che poi vabbè, io finivo al laser nel senso che non sapevo da dove veniva questo laser, però ecco, diciamo che poi alla fine c'è, diciamo, dov'è la verosimilità di questa storia? Il fatto che comunque sicuramente in un certo tipo di periodo politico certe situazioni, certe figure politiche erano comunque sotto l'occhio, l'osservazione di magari di realtà come quelle degli americani, che ritenendo l'Italia una realtà strategica importante ci teneva, insomma, che non finisse, insomma, a orientarsi verso il blocco sovietico. Ma quello era anche un periodo storico, quindi diciamo che poi omicidi politici ci sono stati nella storia, no? Quindi poi la vedi tu, per esempio, stamattina nella chat dicevi JFK, ma insomma quanti ce ne potrebbero essere stati magari anche minori, cioè nel senso magari più invisibili, no? Nella storia, che magari hanno fatto meno clamore, che però magari sono successi sul serio, no? Poi ovviamente tra le cose che sono successe sul serio, alcune cose che le hai viste perché sono diventate palesi, perché sai, quella del JFK ovviamente poi era particolarmente eclatante, è ovvio che dietro poi c'è è tutto terreno fertile, no? È humus meraviglioso per tutta una serie di situazioni che poi ovviamente partono. Volevi dire qualcosa, scusa Francesco? No, niente, prosegui pure. Questo diciamo chiude un po' questa parte strettamente introduttiva. Tutto questo meraviglioso mondo che la storia, insomma, ci ha accompagnato nella storia, ovviamente secondo me, questa è un po' una mia posizione, al di là del fatto che poi dopo ci sono state anche vere congiure, ci sono state le massonerie, ci sono stati i veri complotti, ci sono stati i veri colpi di Stato, tutta una serie di cose, però ecco, ritornando un po' al fatto, insomma, un po' più mistificato, diciamo che secondo me negli anni 80 forse successiva, forse precedentemente, dal periodo hippie al periodo poi degli anni Ottanta, in qualche maniera, che ne è stato quasi l'erede, con per esempio storie come X-Files in televisione. Secondo me poi c'è stato veramente il boom, no? Cioè, mi ricordo che nel periodo in cui è uscito X-Files in Italia, tu ragazzino, io, cioè in quel caso, ritenevo che fosse verosimile, tutto sommato, tutto quello che ti propinavano. Perché secondo me è poi la base un po' di quello che succede, che si scatena all'interno di questo contesto, cioè il fatto che in qualche maniera la cosa ti viene proposta in quel modo, che diventa anche quasi affascinante. Tu dici, però, e se fosse vero, se non ce lo ticchiano per davvero, tutto sommato quasi ci speri, anzi ci speri voi che sia così, altrimenti cade tutto il castello, tutto il castello che si è costruito fino a quel momento. Sì, che poi è il presupposto della fede, se tu ci pensi, no? Sì. Cioè, nel senso, alla fine tu vuoi che sia vero, hai bisogno che sia vero a un certo punto, perché sì, poi mo ne parliamo fra un po', sì. Esatto, cioè nel senso, tu magari sei curioso, poi questa curiosità in qualche maniera si insinua, diventa convinzione, in qualche maniera poi diventa speranza, cioè tu vuoi che sia così. Che poi X-Files trattava veramente una marea di argomenti, cioè nel senso, buttava dentro tutto nel calderone, e anche questo è uno schema che vediamo che si replica ancora oggi, no? In certe determinate situazioni, il calderone è una cosa determinante. Però lì, oltre al concetto di New World Order, che insomma, diciamo, è la cosa che forse in qualche maniera risalta di più, no? Da un certo punto di vista, poi dopo c'erano gli uomini in nero, quelli che nascondono, quelli che fanno sparire, gli alieni, no? Gli alieni che sono non soltanto gli alieni che ci rapiscono, ma noi modificati dagli alieni, fino ad arrivare poi a cose tipo noi siamo frutto di una colonizzazione, ma non ce lo ticchino. Che poi a me se non concesso, pure se fosse vero, no? Cioè, perché non ci vorrebbero, cioè nel senso, che si cazzi, no? Nel senso, però comunque, detto questo, insomma, secondo me X-Files ha dato questo sprint. Tu forse sei giovane, magari non te lo ricordi, però me lo ricordo, però ero davvero piccolo, e quindi era ancora quando, oh no, c'è il bollino rosso, sono cose che non devo vedere, e quindi mi sono perso buona parte della cultura pop anni 90. Ti devo dire, secondo me per te, giustamente, perché tu l'hai vissuto, è diventato pop le teorie del complotto in quel momento, però in realtà cioè, il fatto che X-Files non era altro che uno specchio praticamente di cose che già si dicevano, erano, diciamo, circolavano, quindi giustamente è l'esperienza che X-Files è stata la botta a queste cose qua, però in realtà già girano da parecchio tempo, già avevano influenzato, diciamo, la cultura pop già da un po'. Però l'esempio di X-Files, giustamente, per te è eclatante, è importante, forse perché davvero fu il primo vero calderone in cui si mischiava tutto insieme, forse storicamente. Sì, sì, no, sì, diciamo che allora abbiamo fatto tutto un excursus, no? Senza niente, sa fare le citazioni, roba, sì, genere, la storia e tutto quanto, sì. Però secondo me gli anni 60, comunque il periodo hippie, no? 68, quindi sai, JFK, guarda che è stato ha dato una grandissima spinta, esatto, allo sviluppo di queste cose. Esatto, quindi secondo me anni 60 più anni 80, in qualche maniera, proprio dal punto di vista della diffusione di massa, cioè, quindi quando tu, c'è stato un periodo in cui c'è stata questa transizione tra quando tu sentivi parlare di queste cose e dicevi vabbè, sono cazzate da matti, a però tutto sommato, no? Cioè, nel senso, cambia proprio l'approccio a un certo punto, perché io ti assicuro che soprattutto dopo l'uscita di X-Files non sentivi persona o ragazzo che comunque in qualche maniera diceva beh, visto, ma non ce lo ticchino, cioè, nel senso, questo poi ovviamente a 30 anni di distanza, 40 anni, a 30 anni di distanza, comunque non possiamo dire che non abbia ulteriormente influenzato più a larga scala, perché poi secondo me il problema del complottismo, o in generale delle idee più esotiche, diciamo così, non è il fatto che esistano, perché ci sta anche che uno può fare un ragionamento dicendo pensiamo diversamente dallo schema e va bene. Il problema è il livello tecnico e tecnologico della diffusione, cioè la televisione in qualche maniera ha come su tanti altri aspetti della società, comunque ha portato un impatto importante, no? Perché poi dopo da lì, insomma, non cominciato a uscire tutta una serie di opere che facevano ammiccamento a questo tipo di situazioni, no? Cioè, nel senso, poi, e poi è chiaro, fino a che non siamo arrivati addirittura proprio al film del JFK, che ragioniamoci sopra, cioè quante persone hanno considerato quel film una ricostruzione storica? Ok, e questo poi ovviamente in qualche maniera influisce proprio profondamente su questo tipo di impatto. Ecco, parliamo un attimo, a questo punto io vorrei arrivare un po' al vivo di questa, cioè il motivo per cui ho fatto venire Francesco. Aggiungo solo una cosa, tu giustamente sei arrivato alla televisione e internet, non chiudiamola qua perché si farebbe una puntata solo su come internet ha aiutato moltissimo, quasi intenzionalmente, anche a diffondere, non solo spontaneamente, ma anche ci sono, diciamo, delle, in modo, sono state spinte alcune cose, molte cose, quindi vabbè, lasciamo perdere perché quello ne parliamo più in altri programmi magari. Sì, no, ma diciamo che poi è stata questa un po', come ho detto, no? Cioè, quando sì, io parlo di diffusione tecnico e tecnologica, te parlo della radio, poi la televisione, poi ovviamente internet, cioè tutta quella maggiore propagazione che ovviamente raggiunge posti dove magari prima non si raggiungeva, e questo ha condizionato, secondo me, ovviamente anche un po' nella deculturizzazione, diciamo, del genere umano nell'insieme, diciamo, poi ha generato proprio dei problemi anche dal punto di vista sociale e politico, perché chiaramente certe condizioni, certo disinteresse verso questo piuttosto che quest'altro, è comunque un po' il risultato di questo tipo di situazioni. Poi ovviamente nell'epoca moderna noi ovviamente, cioè, noi possiamo fare tutta una serie di raffronti su quali sono i complotti più importanti, no? Cioè, nel senso, le teorie più importanti, che alcune nascono anche da un senso di percezione, cioè dall'incapacità delle persone di dire il mondo non è solo come lo vedo io, ma è anche fatto in una determinata maniera perché è stato studiato e si è fatto ricerca su questo. Quindi il discorso della terra piatta, per fare esempio, cioè nasce proprio dal modo più infantile di osservare l'universo. Io vedo, ammetto, intuitivo, che infantile, esatto, più intuitivo. Sì, intuitivo, ok, cioè per me, io intorno a me è tutto piatto, come fa a essere rotondo? Se era rotondo io vedevo che era rotondo, cioè, quindi poi alla fine, insomma, veniamo a questo, fino ad arrivare ovviamente al Covid, insomma tutte le nuove cose del Covid, il virus in laboratorio, ma si diceva anche dell'AIDS questa cosa, fatto per motivi anche dell'Ebola, si è detto, dell'AIDS ancora prima, sì, che è stato fatto apposta. Sì, esatto, perché non prima dicevano virus sfuggiti dai laboratori oppure virus fatti apposta, poi con l'AIDS forse è stata anche peggio da un certo punto di vista, perché c'era una connessione con la sessualità, ok? Quindi, era molto più discriminatorio, sì. Cioè, nel senso che poi alla fine sembrava quasi un atto politico di punizione nei confronti, oppure un atto divino. Cioè, ragazzi, oppure come i terremoti, quando è i terremoti, perché il terremoto è Dio che punisce, perché sì, è questa, lui andando proprio per effetto recenza, proprio il fatto dell'ARP, le onde elf, queste cose qua, che poi mi ci sono immesso un pochino, ho detto ok, ma se vogliono fare questo alla Turchia perché non si allinea con la NATO, perché non lo fanno direttamente in Russia, visto che quelli sono tra questi cattivoni, perché la Russia c'ha pure loro un meccanismo. Infatti poi mi sono informato, hanno mandato come unica fonte un video di 2 minuti in cui si parla che pure la Russia aveva sviluppato un cosa che poi è stato rubato dagli Stati Uniti, e quindi gli Stati Uniti minacciano con questo, cioè. Che poi appunto poi arriviamo un attimo al discorso del guazzabuio, però diciamo parliamo di questo, cioè nel senso, cioè qual è la differenza o come si arriva alla transizione, diciamo, del predisporsi a una verità alternativa, diversa, che ci può stare, no? Che magari aiuta un po' a avere una mente aperta, nel giorno in cui scopri una verità che magari non ti aspettavi sei più preparato rispetto a quelli che proprio per loro non è proprio possibile, no? Ecco, dal predisporsi a una verità diversa al credere che quella alternativa sia la verità, cioè quindi non, cioè, che poi secondo me è proprio la contraddizione, perché una cosa è di ok, ipotizziamo che possa esistere quest'altra cosa, e invece dire no, la verità è una stronzata e la mia verità è quella giusta, cioè quindi ovviamente a questo approccio fideistico. Ecco, secondo te c'è un meccanismo, cioè, che fa questo passaggio, oppure secondo te ci sono delle persone che sono già predisposte per quel tipo di discorso e quindi non mi frega neanche fare il passaggio, non c'è un'evoluzione? te lo dico non secondo me ma secondo un pochino studi che ho trovato, perché comunque questo è un fenomeno in realtà che è iniziato a essere studiato dopo le Torri Gemelle in modo più sistematico, perché pure quello ha dato una bella botta, perché pure anche perché già esisteva internet, da là in poi sono partiti, diciamo, la moderna, diciamo, generazione, se vogliamo chiamarlo così. Ciao Carlo Sant'Agostino, che so che ti piace sto termine per quanto riguarda le teorie complottiste, quindi ci sono un pochino dei dati che ci dicono tendenzialmente diciamo, si è cercato un pochino di studiare, ma quali tratti di personalità, che tipo di personalità è più predisposto, diciamo, al complottismo, e non c'è davvero delle vere caratteristiche peculiari, specifiche dal punto di vista personalità, diciamo, di tendenza generale, diciamo, di comportarsi, di pensare, diciamo, che portano a quello. Quello che si è visto, forse una caratteristica, chiamarlo tratto forse esagera, però comunque una caratteristica che si è visto che è comune, è il senso di diffidenza generale che può predisporre un po' di più, il senso di non fidarsi molto degli altri, del mondo che ci circonda, di pensare, diciamo, di tendere a pensare che nel continuo tra pericoloso e sicuro le cose siano un pochino più pericolose, capito? E questo, diciamo, è una cosa che porta un pochino di più, predispone di più le persone, ma non è l'unica cosa. In realtà, se vogliamo vedere tutti i possibili meccanismi che sono stati studiati, sia cognitivi sia emotivi, che in realtà poi si mischiano, cioè non è, noi dividiamo sempre così razionale e irrazionale, in realtà, cioè nel cervello si mischia tutto e si influenza tutto l'un l'altro in modo quasi senza soluzione di continuità. Certo. Però spesso intuitivamente si può dire, magari, che ne so, che i complottisti sono stupidi, non è vero, non è necessariamente vero, visto che non è correlata alla stupidità, diciamo, al basso qui, cioè per quanto alla bassa intelligenza, per quanto pure l'intelligenza sappiamo è cosa di battuta, diciamo, perché magari dei test valutano sulle le cose logico matematiche, diciamo, i complottisti non necessariamente sono intelligenti, piuttosto non hanno molta motivazione nel voler pensare in modo razionale, sì, perché razionalità e intelligenza, volendo, sono due cose diverse. Una cosa comunque è collegare cose, avere informazioni, riuscire a collegare, a elaborare in certo modo dell'informazione, una cosa è cercare di elaborarle cercando di sforzarsi che siano più logiche e coerenti possibili, quindi non è correlata alla stupidità, diciamo. Spesso questa è una cosa che faccio difficoltà a far capire alla gente, quando lo dico dici, ma come, cioè devi essere per forza stupido per capire che, per pensare che la terra è piatta, eccetera eccetera. No, questo non lo penso, non neanche io, no, infatti non è vero. E si è visto anche questo, qui ci sono invece dei dati un po' diciamo, andando un pochino più ad ampio spettro, diciamo, ci sono dei dati un po' contrastanti sul livello socio-economico delle persone e culturale. Alcuni dati dicono che non c'è vera propria differenza, altri dicono che si diffondono un po' di più, diciamo, nelle fasce meno agiate, quindi qua ci sono un pochino meglio dati un po' più discordanti, cioè più che una questione di intelligenza e stupidità è più una questione magari di motivazione, diciamo, sviluppo culturale, ecco, diciamo così. Può essere che sviluppo culturale di motivazione a voler cercare, okay, a voler approfondire secondo dei termini, secondo dei canoni logici e dei canoni razionali, che ripeto non sono l'intelligenza. Che poi motivazione non è detto che sia anche esercizio, cioè abitudine, no? Nel senso, uno dice, sì, che... infatti perché tutto questo, tra virgolette, si risolverebbe, tra virgolette, abituandosi e cercando di esponersi a fare quello sforzo in più, a cercare di ragionare in senso critico. Quindi sì, magari si può dire che i complottisti tendenzialmente sono anche intelligenti, anche l'intelligenza, persone molto intelligenti riescono a trovare dei collegamenti, a giustificare meglio proprio i complotti rispetto magari a persone un po' sempliciotte che ripetono solo a pappagallo quelle che che gli viene detto, solo semplicemente non sono portati a voler fare tutto quello grande sforzo di voler portare questo su una pista logica, coerente, eccetera eccetera. E poi un'altra cosa è vista, magari sì, tendenzialmente sono diffidenti, però ripeto, sono tendenze, vuol dire che il complottista è diffidente di base, tutti i diffidenti sono complottisti, no, cioè non c'è in assoluto una mania di persecuzione, no, però sì, sì, infatti questo ora ne sta arrivando. Poi si è visto un pochino che anche un predittore forte per persone che possono essere avere, cioè essere immerse nelle teorie del complotto, è tutta una serie di costellazioni di caratteristiche personali, tra cui che ricadono nella cosiddetta schizotipia. Schizotipia è lo schizotipo, dico, è uno stile di personalità barra disturbo di personalità, però ripeto, non andiamo nell'ordine del disturbo, che comunque predispone un pochino a credere cose assurde, originali, uniche, diciamo, che se da un certo lato ti posso predisporre ad essere molto artistico, molto estroso, però ti aprono a tante cose, che non necessariamente si parla di salute mentale, perché no, dicendo questo spesso si può dire che i complottisti sono tutti matti, cioè devi essere matto di testa, devi essere psichiatrico per pensare a queste cose, no, però no, questo certo. Non è però, vero. Però nel guazzabuglio ci stanno anche, ma questo come su qualsiasi altra cosa, no? Perché io mi ricordo per esempio negli anni 80, adesso non mi ricordo specificatamente qual era il cartone animato, ma c'era un personaggio di un cartone animato che era il classico vicino americano che guardava tutti dalle finestre perché per lui erano potenzialmente tutti dei russi, cioè lui vedeva vedeva il complotto in ogni cosa, quindi stava sempre lì appizzato col fucile alla finestra perché lui e quando vedeva qualcosa d'anomalo era quello che cioè, quindi, perché poi ci sono anche un po' queste persone, quelle che vanno a vedere se vanno a fare anche i cazzi loro, che stalker, esatto, persone sospettose che vedono. Poi un'altra cosa stavo dicendo, che per quanto riguarda, cioè, però non è necessariamente questa una persona paranoica, perché il paranoide di base, diciamo, pensa che le cose sono rivolte contro se stesso, non tende, diciamo, ad unirsi, diciamo, a cercare una narrativa comune, in senso, diciamo, di comunità con altra gente, cosa che in realtà i complottisti fanno, diciamo, quello che si è visto dal punto di vista psicopatologico è un pochino più associato, poi non so cosa predispone all'altro a, diciamo, depressione, ansia, queste cose più dal punto di vista nevrotico, volendo usare un vecchio termine proprio psicanalitico. E giustamente, cioè, si è visto che se sono una persona che già hai problemi psichiatrici, diciamo in proporzione certo, nella popolazione psichiatrica ci sono più complottisti rispetto alla popolazione non psichiatrica, ma non vuol dire che è una predisposizione a prescindere che se sei psichiatrico per forza sei complottista, se sei complottista per forza psichiatrico, no, è una tendenza relativamente bassa, però comunque poi a essere, diciamo, complottista, a credere che tutto ti è minaccioso eccetera eccetera, ti porta poi a sviluppare disturbi d'ansia, certo, depressione è un senso che dice qualsiasi cosa che faccio è inutile, tanto vale che non faccio niente, praticamente la cosiddetta impotenza appresa, diciamo. E queste sono varie caratteristiche, tra cui anche il fatto comunque spesso, comunque, anche come dicevi anche prima, tu già mi hai anticipato prima il fatto che noi persone, soprattutto forse nel blocco occidentale, diciamo tendenzialmente c'è questo senso, diciamo, di unicità, di individualismo, comunque di riconoscere che il nostro pensiero, diciamo, siamo unici, il senso di unicità, il senso di emergere rispetto alla massa, e arrivare, diciamo, a ragionare in modo che, diciamo, è diverso dalla narrativa comune, dal pensiero unico, queste cose qua ti fa sentire, cioè ti garantisce dei, paradossalmente, dei benefici emotivi e cognitivi, perché ti fa sentire comunque ti fa sentire unico, ti fa sentire diverso, e a volte diverso, unico vuol dire che io ho la verità mentre la massa sono i pecoroni, eccetera eccetera. Infatti io su questo te volevo fare una domanda specifica, proprio perché secondo me è un po' il meccanismo che c'è nelle sette, no? Cioè, nel senso, quando tu entri in determinate realtà dove ti dicono, cioè, noi vediamo cose che tu, che gli altri non vedono, cioè, nel senso, sono gli altri che sono stupidi, cioè, nel senso, che io a volte la definisco un'ossessione, ma chiaramente non è depressione, un'ossessione, però c'è questa cosa, questa, questo voler dare, attribuire a se stessi un, il pregio di vedere cose che gli altri non vedono, quindi io sono più superiore. Sì, che non si dice, vabbè, sono migliore di te, sono più intelligente di te, sei tu che sei stupido che non lo vedi, che è così come dico io, che c'è il complotto, che la terra è piatta, sì, che c'è i microchip nel vaccino e via dicendo, insomma, questo, cioè, nel infatti senso... si è vista una cosa, sì, che spesso è anche associato, diciamo, un po' di più, diciamo, persone anche con tendenze narcisiste, quindi che tendono, diciamo, a considerarsi superiori alle altre persone, eccetera eccetera, un pochino più predisposto, cioè tendenzialmente si vede che i complotti spesso hanno un pochino tendenze narcisiste, perché dicono sono io meglio di te, e questo forse però comunque a questo senso di unicità si accompagna anche a un senso di comunità, di cercare comunque di socializzazione, di cercare altre persone che la portano, che la pensano in te, per cui si creano sti capanni, sti eco chamber, tutti questi canali in cui si uniscono, un pochino come dicevi tu, come se secondo me il meccanismo è un po', tra virgolette, diverso, però comunque ha la stessa funzione, perché ti fa sentire accolto, ti fa sentire bene, cioè, certo, paradossalmente, certo. Ripeto, ho trovato proprio uno studio che dice questi sono dei benefici che ti portano nel breve termine, diciamo, perché è una forma di gratificazione istantanea, perché nell'ordine, l'ho detto, diciamo, tendono comunque a difendere un ego fragile che si sente fortemente minacciato, giudicato magari unico, e invece questi cioè, ti riempi il tuo ego, sono meglio di te, guarda qua, siamo solo noi che sappiamo tutto, siete stupidi che non vedete la verità, certo, eccetera eccetera, certo. Questo, diciamo, più dal punto di vista mobile, dobbiamo mettere cose più dal punto di vista, diciamo, di personalità, socialità, eccetera eccetera. Poi dal punto di vista cognitivo, cioè di pensiero, ci sono, diciamo, delle distorsioni, tra virgolette, di pensiero, i cosiddetti bias, oppure euristiche, cioè, diciamo, scorciatoie di pensiero che grosso modo servono per campare, perché tu non puoi stare là a pensare, se sei in una situazione di pericolo non puoi stare là a pensare tutte le decisioni, tutte le abbagliare, tutte le opzioni che hai al momento, ma devi agire e basta, diciamo, però questo ci predispone a fare degli errori, e tendenzialmente c'è anche questa cosa, a parte l'unità, l'unire, diciamo, la distorsione che abbiamo tutti, questa distorsione che abbiamo tutti, cioè il bias della negatività, nel senso che le cose più negative, più pericolose, più malvagie sono quelle che hanno maggiore il cervello, la testa ci investe di più, diciamo, e tendono, diciamo, a soverchiare le cose positive. Per esempio, su l'esempio classico è quelle pochissime volte che cade un aereo, ieri sono pericoloso, avete visto, io non prendo mai l'aereo, oppure quella volta, che ne so, uno che schifiamo fa un errore, hai visto, quello è uno stronzo, hai visto, quello non capisce un cacchio, capito, a prendere le cose negative ed enfatizzarle, unito anche quello che in psicologia viene detto chiusura cognitiva, che non vuol dire essere ristretti, diciamo, dal punto di vista di apertura, cioè non essere aperti, vuol dire la necessità che il cervello ha, che le cose ambigue non gli piacciono, le cose che hanno complessità, che hanno vari punti in contatto, oppure di in comune, oppure che in cui bisogna studiare, bisogna esercitare propriamente il pensiero critico, quindi bisogna sforzare propriamente, non le vuole accettare quelle soluzioni veloci, immediate, che tendenzialmente quando colpiscono la pancia fanno più effetto, e a chiudere in qualche modo, a cercare di riempire in modo coerente quella che è un'ambiguità. Per esempio, il fatto, diciamo, che riempire questa ambiguità con delle cose intuitive, scusate, stavo dicendo una cosa, volevo completare un'altra, delle cose intuitive, magari anche illogiche, che però danno una pezza subito, immediata, diciamo, che ha senso in quel momento, ma che poi non permette poi di approfondire. E questo, diciamo, un po' lì l'origine, come dicevi tu, che spesso si vede nei complotti, si fanno mischioni di robe tutto coerentemente collegate, una narrativa perfetta, cioè, no, ma io però sta coerenza dei collegamenti non ce la vedo, cioè, nel senso che se io fossi anche pur perché cioè... sei più predisposto, come diciamo, a pensare in modo critico, capito? Cioè c'è una coerenza immediata, intuitiva, capito? Che rispetto ad andare a vedere, per esempio, fa più impatto, diciamo, più parlando di nuovo il fatto del terremoto, l'ARP che ha sviluppato sta tecnologia per sviluppare i terremoti, le onde, diciamo, ha più le onde, diciamo, Samuel Elf. Sì, Samuel Elf, diciamo, ha più impatto pure perché fornisce una giustificazione, una spiegazione bella immediata che completa, diciamo, tutti i disegni, invece di stare là a pensare però che in realtà hanno lavorato su alcune cose, diciamo, per quanto riguarda delle onde che possono fare sta cosa, che poi però non arrivano a queste, che è più difficile, vorrebbero davvero dell'energia, un casino di energia, cioè di andare a studiare la fisica, la chimica, queste cose qua, per capire benissimo tutte queste cose, capire che non è possibile creare terremoti di sto magnitudo a così larga distanza sulle coste tramite satelliti di roba. Cioè non ci arriva a pensare, dice, secondo me no, non è vero, esiste questa tecnologia e viene usata. Vabbè, sai, nell'ordine del tutto è possibile, perché come nella fantascienza, no? Cioè possiamo viaggiare tra pianeti, quindi automaticamente possiamo pure. Poi ripeto, cioè, non esiste, esiste sicuramente qualcuno che ha fatto una classificazione, diciamo, dei tipi di teorie del complotto, però di solito quando sei disposto a credere che la Terra è piatta, o ancora peggio, che siamo in una Matrix, eccetera, eccetera, tendenzialmente sei disposto a credere altre cose, perché solitamente i complottisti non credono in una teoria del complotto, ma in più che sono variamente unite, che poi qua avevi pure la coerenza, perché uno con l'altro, visto che non sono cose non basate su dati, uno con l'altro credono in cose diverse e si appiccicano tra di loro, in realtà vabbè, sono sì, uniti, sì, ma sì, che a un certo punto. Vabbè, certo. Questa è forse la caratteristica mia preferita, tra virgolette, dei complottisti, che ragionano in modo sconnesso, scollegato. Più che sconnesso, scollegato, invece di ragionare in modo intuitivamente scientifico, perché tutti noi intuitivamente siamo degli scienziati, vediamo delle regolarità, vediamo delle cose che si ripetono e pensiamo che quelli sono dei fatti e una regolarità. Per vabbè, esempio, perché il nostro cervello cerca di dare coerenza a quello che c'è intorno, coerenza, a noi. Loro invece, qualsiasi cosa che, diciamo, dimostra dei dati che va contro giustamente le loro teorie, quindi che sarebbe una dimostrazione ripetuta del fatto che hanno sbagliato, per loro è invece una conferma che hanno ragione, perché è un tentativo di insabbiare, di scoprire, di certo, nascondere la verità. Certo. Quindi ragiona in maniera totalmente illogica, diciamo, intuitiva sì, però completamente illogica, come tra l'altro ragiona un cervello umano, però specifico magari per alcune caratteristiche, per il fatto, cioè loro ogni giorno lo vedono che ogni giorno sorge il sole, fa una regolarità, c'è qualcosa, però magari pensano che c'è al centro sto sole che gira, che viene spento, queste cose qua, invece di pensare che la Terra è tonda, eccetera eccetera, tutta la teoria. Vabbè, però è vero pure che se io dovessi pensare magari a come avrei potuto pensare quando ero magari un Neanderthal, cioè nel senso, io vedo sta luce che parte da sopra, mi passa, cioè, e infatti per questo cioè, ci sono... è come una lampada, cioè, può essere pure una lampadina, io che ne so, cioè nel senso, no? Perché... sì, intuitivamente vediamo sta cosa che si muove, diciamo, ma noi siamo fermi e non è quello che si muove, e nel momento in cui dici, ma guarda, in realtà guarda, queste sono foto da satellite, no, questa è la conferma che hanno fatto le foto truccate, guarda, c'è stato questo, no, cioè, poi la cosa bella è poi si va in, cioè, non ci puoi ragionare, cioè non con fatti logici, certo, perché ripeto, certo, non sono abituati a ragionare in quel modo, e qualsiasi cosa che gli porterai sarà una conferma del fatto che stato insabbiato tutto, quindi sono loro che hanno comunque ragione, e la cosa bella è che poi diventa proprio un ragionamento che si spiega sempre da solo in modo automatico, perché qualsiasi cosa, cioè, hanno una spiegazione pronta oppure arrivano a una spiegazione per cui è impossibile ragionare. A volte faccio tipo delle simulazioni, dicendo, parlo con la gente, ok, io faccio il complottista, tu cercami di convincere il contrario, anche io intuitivamente, tra chi ci batti con tanti gruppi, riesco, diciamo, sempre a trovare la scusa pronta per giustificare tutto. Se voi facciamo una simulazione di 2 minuti adesso, no, faccio no, il nervosito. No, anche perché non ci abbiamo, io c'ho un paio di le domande, così chiudiamo un po' anche questa vai. Puntata. Vabbè, una è, vabbè, che poi alla fine tutto questo diventa un sostitutivo della fede, cioè comunque tra concetti esotici e concetti esotici, cioè diventa veramente una pseudo religione. Sì, uno pensa, diciamo, ora adesso che ci sono i complotti, ci sono gli illuminati, la terra è piatta, il sole. Una volta c'erano, meglio, ci sono ancora i miti, che ci sono gli dèi, che ci sono queste forze soprannaturali che dobbiamo onorare in qualche modo e rispettare, che ci portano, che regolano i fenomeni naturali. Quindi comunque non avendo gli strumenti di trovare la spiegazione più logica, scientifica, ci si accontentava di scuse, diciamo, di giustificazioni intuitive, per cui sono tutte delle forze sconosciute manipolate da esseri, certo, sconosciuti, che se ci pensi, diciamo, alle caratteristiche della teoria del complotto, pensando che noi siamo in balia alle scuregge, diciamo, di alcuni dei, di alcuni esseri trascendentali che fanno il bello e il cattivo tempo, certo. È un pochino quello che penso, visto che ci sono i poteri forti che vogliono la globalizzazione, il World Economic Forum, Soros, i sionisti, queste cose qua, eccetera eccetera, che controllano il mondo. Sì, che poi voglio dire, nel senso, vabbè, diciamo, il presupposto è abbastanza similare, anche forse probabilmente un senso di sicurezza, no? Ci dà a pensare che c'è un dio, un papa, un re, sì, un duce, capito? Sì, qualcuno, sì, che comandi su, cioè, che qualcosa che sia talmente superiore a noi che noi alla fine dobbiamo semplicemente sottostare, magari. Questo però magari è un altro presupposto. Comunque aspetta, parlando di teoria del complotto, che hai nominato il duce ieri, piccola parentesi che però ci azzecca, ma vi faccio il perché. Ieri stavo rivedendo, dopo anni che non lo vedevo, Fascisti su Marte. All'inizio mi era sfuggito, perché davvero sono due secondi fa vedere questa cosa, quando fa vedere il flashback, scusate, il retrolampo, per far vedere come hanno fatto la missione, come hanno costruito il missile, fa vedere come sono riusciti a costruire il missile, e fanno vedere praticamente che sequestrano Majorana. Sì, beh, certo. No, mi ero dimenticato questo fatto, mi hanno dimenticato il sequestro di Majorana, scomparsa di Majorana. Sì. Ma lei non sa, lei siete giornalisti, brutta gente. Comunque, una risposta secca, cioè, ovvio che è impossibile, lo so, però vabbè, facciamo finta che mettiamo un attimo da parte, insomma, tutto il costrutto, le cose che abbiamo studiato, le cose che sappiamo. C'è un mio pregiudizio importante che riconosco, è che secondo me chi organizza tutta sta masnada, in realtà, cioè secondo me c'è un'intelligenza dietro, cioè, nel senso, c'è un complotto. No, nel paradosso è che io vedo tutti questi gruppi, queste persone, soprattutto quelle che focalizzano molto sulla propria identità, sulla propria personalità, che secondo me manco ci credono a queste cose, però trovano in questo il motivo per poter emergere dal punto di vista sociale, cioè, nel senso, comunque se fanno il loro seguito, no? Le loro migliaia magari di follower basati su un qualcosa che sanno che fa presa su quel tipo di persone, e che queste persone diventano un po', tra virgolette, dei loro fedeli, no? Ecco, diciamo che, boh, al di là del fatto che sicuramente c'è una migliaia di persone che credono anche a questi post guazzabuglio, come dicevamo prima, secondo me comunque chi costruisce queste cose, questi gruppi, queste realtà, secondo me c'è un'intenzionalità, cioè non è veramente persone che veramente credono in queste cose qua, perché secondo me ci vuole uno scatto superiore nel pensare di dover organizzare, indirizzare, focalizzare l'attenzione delle persone su una cosa, che secondo me poi alla fine, boh, non lo so, cioè vedo un'intenzione diversa, un'intenzione superiore, no, in questo tipo di cose. Ecco, tu che ne pensi di questa cosa? Che non c'è una sistematicità, però c'è dell'intenzionalità in alcuni, buona parte, diciamo. Poi vai a vedere, poi può darsi che sono gente che parte intenzionalmente, che poi coinvolgono della gente che non è intenzionale, che a sua volta fa proseliti, oppure viceversa, diciamo, parte da alcune cose che poi se ne approfittano, alcune cose intenzionalmente, anche dal punto di vista governativo, in ottica, soprattutto con internet, con i gruppi, con i social, in ottica, diciamo, destabilizzante. Poi partono da delle trofane, delle cose, e poi tendenzialmente poi creano altre cose. Quindi, cioè, la cosa non esclude l'altra, si mischia tutto, però c'è, ti posso dire, ci sono dati che c'è dell'intenzionalità a creare comunque queste cose per poi in qualche modo creare destabilizzare, che questo può sembrare a sua volta una teoria del complotto, in realtà però ci sono dei dati, l'ho premesso prima che può sembrare un'ulteriore teoria del complotto, però cioè voglio dire alla fine cioè, questi diventano anche gruppi importanti anche dal punto di vista politico, sociale, comunitario, settario, sì, quindi, sono arrivati in politica, cioè, ricordiamo che avevamo, ci sono sicuramente adesso, ma chi avevamo al governo fino all'anno scorso, con tutti traghettati da un certo movimento, dove, per non parlare, non abbiamo menzionato proprio a fatto qua non tutte quelle cospirazioni statunitense, certo. Ci sono comunque dei senatori che dei senatori repubblicani che credono fortemente in questo, tutta la Marjorie Taylor Greene qua bionda, che sta sempre a fare, cioè è sempre protagonista, proprio un acquanonista proprio doc, che però è al governo, cioè in al Senato, sì scusa. Quindi comunque l'obiettivo spesso è arrivare a posizioni di potere. Ricordiamo che QAnon ha portato, cioè comunque a una cosa unica nel suo genere, cioè l'attacco al Senato il 6 gennaio del 2021, e poi hanno voluto fare, diciamo, la riproposizione storica in Brasile poco tempo fa, proprio paro però con la logica del Brasile, che là si deve partire una pistolettata così a caso e non fare risonanza, perché là tanto si ammazzano tutti, parte. va bene ragazzi, abbiamo cercato di racchiudere un po' tutto quello che potevamo nel tempo che abbiamo a disposizione. Ci torneremo, perché comunque ci sono tutta una serie di temi che io comunque voglio affrontare, di cui siamo il grande reset, quindi appunto no, ma poi in generale veramente ci sono tutta altre cose anche legate alla mia esperienza personale di determinati ambiti, determinate situazioni, che mi piacerebbe comunque raccontare e magari sviluppare in questa maniera qua. Io intanto ringrazio tutti quelli che sono stati in chat, quindi Michela, Walter, Samuel, Cristian Spacca Paniccia, grande Cristian, compagno, ma grandi avventure, proprio grandi avventure, dalle feste dell'Unità alla politica, abbiamo fatto veramente il mondo insieme. Mi fa piacere che sia entrato dopo tantissimi anni nell'universo di Runtime Radio. Ringrazio Francesco, chiaramente, perché senza il quale ovviamente puntate come queste sarebbero impossibili, sarebbero fatte da me che dico cose a caso, perché insomma è questo un po', però diciamo, almeno con la coerenza, con la coscienza di dire, guardate, l'onestà di dire, io dico cose a caso, non dico questa è la verità assoluta, assolutamente sì, questo non ti configura come complotista. No, infatti, detto questo, vi ringrazio di essere stati qui con noi. Vi ricordo che la prossima settimana la puntata del Grande Reset sarà dedicata alla convivenza civile, quindi a tutte quelle realtà tipo il condominio, insomma tutte quelle realtà dove noi viviamo nelle comunità e dobbiamo interagire con gli altri e dobbiamo praticamente applicare delle regole del quieto vivere, dello stare insieme, insomma. Poi comunque durante la settimana vi spiegherò bene tutta una serie di determinate cose. Ovviamente questa è una puntata che nasce sempre da un aspetto personale, ossia quello che vivo io magari come tipo di esperienza all'interno di un contesto dove si stanno facendo determinati lavori e via dicendo, però questa cosa poi si può declinare in generale, perché le regole della convivenza sono importanti e non tutti le rispettano, o perlomeno molti di noi le rispettano, diciamo, a modo loro, cioè nel senso hanno una loro interpretazione, così come in tantissime altre cose, che di per sé non è detto che questo sia sbagliato, ma è sbagliato quando ovviamente il reinterpretare le regole significa faccio quello che cazzo mi pare a me. Invece vi ricordo che questa sera dalle ore 21 parte un enorme live di Runtime Radio, che partirà appunto alle 21 e finirà insomma intorno alle mezzanotte e mezza luna, perché partirà lo speciale di Sanremo, che poi partirà effettivamente alle 21.30, però alle 21 ci sarà un piccolo inserto sempre legato a Sanremo che vi consiglio comunque di ascoltare, e poi Runtime by Night, dove parleremo, guarda caso, proprio di leggende metropolitane, cioè delle leggende urbane, del coccodrillo, del gigantesco coccodrillo bianco che vive nelle fogne di New York, insomma queste cose qua, di Slenderman, di tutte quelle quelle cose che non solo la gente crede siano vere, ma magari anche lì partono chissà da qualcosa, da un'osservazione, da un visto o non visto, più che altro farci due risate su quelli che sono i miti, insomma, diciamo, le leggende urbane più importanti. Detto questo, io ringrazio Francesco ancora una volta. Grazie Francesco. Prego, a me piace sempre parlare di queste cose. Non è che mi occupo direttamente, ma è un mio hobby, diciamo, professionale scientifico. Comunque studiare queste cose, quindi mi diverto sempre. Eh sì, poi ricordiamo che tu sei un inviato, fondamentalmente. Cioè, tu fai un po' il reporter, diciamo. Okay. Sì, purtroppo metodica, però. Beh, non è che ti ha chiesto nessuno. Cioè, ti piace. Il mio, diciamo, fondamentalmente sì, anche a volte non ci sto dietro, perché soprattutto mo mi sono iscritto davvero a quasi una ventina di questi gruppi, perché ognuno poi si rimandano l'uno con l'altro e postano davvero con una frequenza assurda, cioè non ci stai dietro. Beh, vedilo come una possibilità professionale. Secondo me un domani avrai raccolto tante informazioni da farci uno studio sopra, che ne sai, in aggiunta a quelli che già ci stanno. Grazie a tutti e buona giornata.